Insegnami a ballare, insegnami a ballare, insegnami a ballare. Insegnami a ballare, insegnami a ballare, insegnami a ballare. Insegnami a ballare finché non finisce la strada. E insegnami a ballare fino alla fine della strada. E dammi da fumare, insegnami a fumare, dammi da fumare. Insegnami a fumare, dammi da fumare, insegnami a fumare. E insegnami a fumare fin quando la notte è sospesa. Insegnami a fumare fin quando la notte è sera.